Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Augurandovi buona giornata e ringraziandovi per l'ascolto, e ringraziando anche Walter per la consueta regia, vi rinnoviamo l'appuntamento per i più volonterosi domenica prossima alla medesima ora qui a Radio Popolare. Buona giornata a tutti. Adios.